Amo il macino, marica nena, ma sei putino, che vuoi il macino? Amo il macino, marica nena, ma sei putino, che vuoi il macino? Amo il macino, marica nena, ma sei putino, che vuoi il macino? Amo il macino. Ese nunca ha sido un son homofóbico. Y tampoco Iñaki es el hermano de Mickey, es Paco. Pero no es familia? Para Paco, es para Iñaki. ¡Punto! Le faltan talas de sal. ¡Punto! Le faltan trompeando. ¡Punto! Le faltan talas de sal.